sotto il chiaro di luna. Ti è rosso il infano perché più d'allora non sei la tua bambola bruna. Un sogno sei tu del bel tempo passato, ma il tempo che fu non ritorna mai più. Fierro